Le schedine, piazzate buone, ma io non ne so più di elettronica, se no ce lo fuoco. Sì, avanti, chi sei? Avanti l'amico che è tutto a posto, chi è? Ah, la voce mi è sembrato sceriffo. Sceriffo, tu sei? Va bene, sceriffo, dai, ci sentiamo, non più ruda questa parte. Come mi ascolti, Leopoldo Torres? KK, dai. Va bene, dai, sempre lì abiti, sceriffo. Ma che è Antonio? Sì, Antonio sceriffo. Antonio, mi ascolti? Antonio Kawasaki da Sassari, abbiamo la baccato lì a Fiumesanto, ti ricordi di me? Ok, dai, ciao, ben sentito. Ciao da San Pedro, assorto, amico, come mi senti? Capa, sono Antonio da Sassari, mi senti? Andà bene allora. Oponio, Radio Zero. Radio Zero, sicuro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Magari uno, vabbè, ci sente appena appena. È un po' finta a usare, aspetta. È più forte, non bippi che la voce. Pure di chi si bippa 50 anni. La fatti tutto? Se trovato il microfono della Lafayette, quelli che escono ben furti. Quelli normali, però che escono... Il microfono della Lafayette, il microfono originale del Galaxy, perché stiamo cercando roba per Antonio, e già l'ho trovata, e poi altri microfoni, carcasse di microfoni Lafayette. Allora, adesso sto uscendo? Certo. Adesso sì, ho cambiato sta delta. Guarda un po', sono col 2009, la buon'anima. Una bomba. Il Sadetta va bene sul gas, lo stesso attacco c'hanno, c'ha del gas. C'era uguale, preciso identico. Portalo qua. Certo, dottore. Ma era un giorno che non lo sentivo con l'apparecchio. Sì, avevo un anno che non lo tocco, figurati. Però già funziona sempre bene. Ho acceso Fujimi per farlo girare un pochettino, dato che era un bel tempo senza usare. C'ha 30 anni questo baracchino. Lo usavo il Bierizzetto, già te lo ricordi. Quello di Giovanna. No, questo è il mio, Giovanna c'ha l'altro 2009 che si aveva comprato, aveva pagato 90 euro, capito, da internet, l'ha comprato da un signore, e c'ha quello originale con la maschera, con l'alluminio, questo invece gliel'ho messo, c'ho la maschera del Tornado, io 34S e l'omologazione dietro. Ah, ecco. È camuffato, dai. Esatto, bravo, è camuffato. Mentre la mascherina, non mi ricordo che l'avevo dato, la mascherina originale sua l'avevo data, non mi ricordo a chi. Poi quella invece, quella del Condes 4000, sembra l'avevo data a Tonino, se non mi ricordo male. Esatto. Ho capito, Tonino. L'avevi promesso, me l'hai mai dato, funziona tutti bene. Ohia. Comunque già sto uscendo questo. Sono contento. Vidi. Praticamente i turni della polizia. Più o meno, Allora uguali, proprio uguali a quelli che hanno la polizia quando risponde. Adesso ho messo a due, se no rimane troppo lungo. Te lo lascio a tre, aspetta, ce l'ho messo quello del microfono. Ah? No, aspetta, così c'è quello del microfono. Perché? Ecco, è bello lo stesso, non è male. In spagnolo lo usano le doge BP così, se ti ricordi qui, bene. In pratica il bip del Saverta col bip del baracchino. Abbiamo controllato. macchina che splattera. Ma più bene in Givi? Penso di no qua. Più già non ne sento. Stiamo di nuovo ricomprando di nuovo, vediamo un po' se dura questa frequenza. Speriamo bene, si fa una ruotone grande. È una compagnia che quando esci, quando vai fuori, io l'altro giorno sono andato al Ghero, adesso domani mattina vado al Ghero, alle 10:30 arriva l'aereo dove c'è Marco con la ragazza che stava venendo da Bologna, sono andato a prendere. Ah, sono andato a Bologna? Scappa. Dalla sorella era. Oh, Manuela è in Thailandia. Scappa. Io più della marina di sotto non so che andendo ultimamente. Sì, vabbè, ma che c'è per San Pì. No, vi dico, tutte le canne al vento, e mi si inglio le giornale, se do capo a venire a 7 o 3 da buco. Comunque la marina di sotto si pesca bene, le orate ci sono, le spigole, e le paraglioni, i zaraghi. Se ci sai fare con la canna da pesca, te la fai una pescatina, mi. Quindi io vedo un'intalcana da lancio, con le canne lì devi mettere un piombo da 150 e devi avere manualità lanciando. Se riesci a lanciare a 150 metri c'è l'autostrada così chiamata, che è praticamente un canale dove passano tutte le orate e la mili di Sigurichi. Vero, verissimo. Io c'ho una Silstar, Silstar Graphic in 3P, 3,90 m. Nel mulinello c'ho un Sigma 080, bello, visto degli anni 80, massiccio rimane. E niente, usavo il piombo a goccia, oppure quello a cono quando c'era un po' di risacca. Riuscivo a lanciare dove hai detto tu, dove c'è il canale lì. Facevo tipo una specie di lancio a pendolo. Però qualche volta mi si truncava lo biombo a che ero un po' bifidiato le prime armi, no? Come mi avevano imparato. Mi aveva imparato Farro, un pescatore di sotto micidiale. Cavolo, ho preso un'orata da quasi ricucchirimi. Cazzo, ma lo sai cosa era? Un demonio era di dentro. Ci credo. Chi è quello bassottino? È un po' ricciolino e nelle vigili del fuoco lavorato. Cappa, io me ne ricordo uno di sotto, un bassottino, che ha preso 7 orate, una dopo l'altra. Io ero a fianco, però non stavo pescando, ero a fianco in spiaggia, ha preso 7 orate, adesso me le conservo per il matrimonio, me le metto in freezer e le metto al matrimonio. Gaffa. No, a sotto ce n'è un bel di che vanno in spiaggia a fare surf casting. È purito in chi vi burro romare. Ehi, bello, se vai dove c'è il primo Rizzo Mar, dove c'è la discesina della ruccia di Noli Mettollere scolpita, lì è ancora più bello, lì ci trovi a 3 metri di distanza dalla spiaggia, c'è una secca di 2 metri e ci sono i cannoli. E poi a terra verso la spiaggia ci sono le arselle. Abbiamo fatto un coso, un rettino di ferro, e avevamo la cintura di sicurezza al bastone. Mia magna da ripaghisti, ui. Però non si muoveva, noi andavamo a imbrunire quando non c'era nessuno. Riempivamo due bottiglie di acqua, di arselle, ed eravamo a posto noi. Sono telline, non arselle. Tellina in italiano, però noi la chiamiamo Marcella, che è più maturita, e le telline sono quelle un po' più piccole. Queste rimanevano belle massicciti. E anche i vasolari ci sono. Io facendo così le telline, prendevo anche i granchi di sabbia, me li usavo per pescare. C'è stato un break. Un attimo, avanti un break. Vecchi, sono tornato. E riprendi da niente. vedi, dai. C'è Antonio, Antonio, puoi per Daniele, e poi fai girare. Scappa, finalmente ci sentiamo bene, Daniele. Finalmente Antonio, come sei? La cutiacca. A casa, a Sassari, bene, ti arrivo lì a cosa? A Itiri. Va benissimo Antonio. Forte e chiaro. Poi sento un altro segnale più basso, non so chi sia. San Pedro Sorso. Chi è? San Pedro Sorso. Scappalo, gira, mi senti a me? Io sono qua a Sorso, in zona alta. Mi a me, mi. Mi a me, mi. Arriva a passo, Santiago 3, Radio 3, quasi, dai. Mezzo al QRM, però va bene. Anche a Sorso arrivo, eh. Accendi la stufa, Sambe, che va freddo. Accesa è, accesa è, pupelli è. Cappa, che rapporto di segnale mi dai? Va. Daniele, sì, va. Non mi viene, va. Ausini. Ausini? Hai sempre visto di solo, tu? No, per comunque. Segnale 9, Santiago 9. Radio 5, va bene. Capo, va a farla grande, dai. Cosa sei usando? Io. Ma l'Inter che sto usando. E a fianco? Oh, fa più freddo. E a fianco c'è il microfono. E tu cosa stai usando già? Che stai arrivando, hai mandato il segnale di nuovo. Danni. Gaffa, gaffa! Vabbè, tu bene, ascolti da quelle parti. Stavo leggendo una notizia di sondaggi, non mettono la Meloni, crolla anche la fiducia della Meloni. Ragazzarda, ragazzi, ali. Io sono arrivato via con gli americani. Allora, chi si è arrucchianata con gli americani? Gaffa, lui. E non ti devo fare un Gianni. Chi sei arruffianato con Trump che ti bucca la polvere di stelle, non è un preso. Che è la polvere di stelle? Chi se non l'aveva ancora intesa? No, che non vi chiedi, basta, non si l'ha già buccato un muro, Che se diavolo. Cazzo, Maduro, negli anni 50, dopo petrolio, doveva essere ci di vola da ricotti con qualche pacco di zucchero, Allora, via, mammazza, macchi e ricotti. Non è vero già? Ah, lo so, io mi becca un faccio. Devo in camera, me l'ha detto la televisione. Giuliacci me l'ha detto. E c'è Corona che le fa di tutti i pezzi. Ora. Biglietti, ui, aspetta, cosa ne c'è fuori? Non c'è già, va bloccato un grande fratello, e a coso a Berlusconi l'ha fatto un casino lì. E gli ha detto che era in mezzo alla mafia, che chissà, che già, ci ha detto un po' di rigoroso. Ma tu sei che stai cercando di modulare? Antonio? No, scendi di radio, scendi di segnale e basta. No, ma noi Antonio, non vi dai a cazzo so. Gianni? Sì, avanti. Avanti chi chiama? Aspetta. Ma una cosa sotto? Non lo so, sappi, lo ascolti a Daniele. No, non ce la faccio ascoltarlo perché dietro di me c'è una montagna ed è due più lontano. Che quando sta arrivando? Più piano sta arrivando. Ora. Questa è prova. E lui mi sente a me. Io ascolto. Ma sono già l'ascolto. Io non conosco da quello, la verità. allora, ma lo sento, sento sapere, ma l'altro lo sento. Adesso faccio un passaggio, 1-3 prova, 1-3 prova a San Pio da Sotto, mi ricevi modulazione di frequenza? San Pio, con quanti watt sto uscendo? Boh, non lo so, 80, 60. Ah, si è attaccato, ho capito. Capo, mi sentite a me? Questo è il prima non stavi uscendo di radio. Infatti sono andato in un altro canale, ma mi ti indicherà Marasotti. C'è splatte di il gas che non prende splatte, ma si è attaccato. Ecco, una cosa. Mi splatterà, vieni sul 12, per forza mi splatterà. Capo, scusate. Hola. Com'è il segnale? Migliorato a quelli più lontani, però, lo posso chiedere. Io ti sento più forte, Antu. Io è fortissimo, vabbè. Capo, il segnale è sempre quello. Forse è un pelino. Fa un passaggio. Comunque la sia più positivi, già. Già fa sé. Portate la radio. Ciao, questo... questo vizio e questa radio ogni tanto devo mettere a posto il PTT perché ha un pochettino di vizio che molte volte non entra. Questo è il Cobra. Ehi, no, questo è più forte. Kappa, dai Gianni. Ehi, hey, allora è lì. Ah, tu sei sceso adesso, non stai usando più quello di prima, no? Sì, sono abbassato tutto. Ah, scappa. Va bene. No, cosa è successo qua? Io la prima... forse adesso è sceso. Adesso mi salgo di nuovo, guarda. Qual è il segnale? 4 che lì vi è. Io sto uscendo alla Pazzo Furios. Navighi lì. E cosa? Fatti speciali. Adesso sto uscendo con 2 watt, Daniele. Ho abbassato anche la potenza del Galaxy, con 2 watt. Con 2 watt sei... Santiago 6 a picchi positivi al 7, dai. La radio è buona. Capo. Aspetta che provo a aumentare il power, così mi dici quanto è. Gava. Riprendi, Pompu. Aspetta, ho trovato sta delta, cazzo, se devo attaccare la bocca, cazzo, mi fa uscire bene. Non ho capito perché, forse era, l'avevo fatto la commutazione del codice 4000, ecco perché, quando ce l'avevo. Se funziona, funziona. Daniele, guarda adesso ho aumentato il power. Ma hai aumentato un po', cos'hai detto già? Il power, la potenza della radio è aumentato, vado a vedere. Sei modulato, sei leggermente un pelino oltre il 7, dai. Capiti positivi. Quindi non cambia molto. No, già cambia, già. E un pochino già cambia, si vede la differenza. Vedi, adesso io sono con i fatti normali, com'è? Che cazzo, Anto, tu sei... più basso, Anto! Non sei, in mezzo al QRM quasi. E adesso com'è? Pazzo e furio, sarà tutto fugace! Davvero, me? C'è la differenza, vero? Se fai come ti chiede a me, non che mi prendete un caffè. La caramba! Attacco, sono sceso a 2 watt poco fa. No, così va bene, che senti un bel forte e chiaro. Cappa, dai, già va bene allora. Ma che su di usi, mi udisci di dov'è, mi senti a me? Daniele, non sei di tua sabbia. Io l'ascolto già. Massimo già l'ascolto. Arriva Santiago 3, radio 3, quasi da abbondante. Cosa arriva? È interessante questo sentire. Vediamo un po' se c'è Tore Squalo, che lui sta sempre all'ascolto e poi non entra. Tore, ci sei? E no, non deve esserci, dai. Cappa, se lo sarebbe entrato. E vabbè, vediamo un po' Claudio. Claudio non c'è. Vabbè, riprendete voi, dai. A chi tocca si prende i micheli in mano. Gaffa, gaffa, mi giù di sacchi, mi sono mangiati, papà. A te ogni tanto bisogna dare movimento alle mascelle, già. Ah, no, io non posso, perché sono stato male questi giorni. Dall'influenza mi sono preso questa bruciore di stomaco, non riuscivo a digerire nulla, non mi era mai successo. Dopo l'influenza ha cominciato questa nausea, questa cosa, bruciore di stomaco, e sto mangiando un po' regolato, adesso sto mangiando piano piano, sto riprendendo a mangiare normale. Ma se l'altro giorno mangiavo un riso in bianco, roba così. Ecco. Ma vabbè, ma questi sacchi non fanno niente, mi c'hanno potassio. Tanto te ne mangi una decina, dai, un pugnaretto e mangi. E poi magari, non lo so, magari poi ti bevi, se lo puoi bere un po' di Coca-Cola, va rubato di gas gastrici. E niente, dovrebbe funzionare bene. Però poi il mangiare, devi mangiare come hai detto tu, un po' più in bianco, un po' più sano, là. E la Coca-Cola fa bene a farsi aumentare la gastrite. Avanti chi vuole entrare. Buonasera a tutti, Luca Floppi, salutoni. Ciao Luca, ben sentito, cordialità. C'è Antonio, io, San Pino da Sorso, Daniele da Iti, insomma siamo un bel gruppetto, dai, vai per chi vuoi. Sto provando una radio che mi hanno dato, come esce rispetto a come uscivo gli altri giorni, come mi sentite? La radio è normale, però è buona, dai. Molto buona come radio. Il CB è un President Milli, piccolino piccolino, senza rosmetro, solo con i canali e con LED TX. Vabbè, funziona. Ora stacco e ne attacco una terza, così magari provo anche quella. Ciao. Vabbè. Andare. Guarda questa come gira. Questo chi è? Sempre io, c'ora già, ho cambiato il radio. Io gli dico a me, Santiago 4 però sì. 4? Claro, e prima come ero col grande? Non ci ho fatto caso, però arriva bene il segnale. Catogna Breddu. Qua è il 5 qua. Ciao, va. E Breddu e Fendi. Vabbè, Marco. Ehi, buonasera a tutti, stavo ascoltando appena appena, ma qua viene un po' di corrente, ho le gambe gelate. Va bene, Daniele arriva a 9 qua, come al solito. E sapete come ti arriva? Anche San Pei arriva a 9, tutte e due 9, diciamo che è quasi 9, però visto che è secco, diciamo che è un vero S9, dai. Gianni, riprendi. Ciao Marco, ben sentito, dai. Risolto tutto, con l'amplificatore, era un capo che mi dava problemi. Uno spezzone? Allora, ne ho cambiato uno e uno peggio di là, vabbè ce l'avevo da tanto. Adesso l'ho fatto nuovo con l'accetto, quello che c'avevo, gli ho messo due piedi nuovi, è perfetto. E l'attacco lo facevo bene, c'è poco da fare. Ne ho provato in mille maniere, ma l'attacco lo facevo bene dall'inizio. Ciao Marco, ben sentito. Ecco. Ah, anche Pomponio c'è, quello abusivo. Ehi, quello abusivo, adesso è tornato con i quattottoni, ti piace? Ehi, ehi, va bene, sì, qua c'è troppo freddo veramente, non ci può stare. O mi porto la stufa o mi metto qualche sottopantalone. Riprendi, Antonio. Luca da questa parte per prova apparato, sto uscendo? Sì, ciao Luca, sto uscendo bene. E quindi anche questo funziona, grazie. Ha voglia che funziona. Va bene, va bene. E beh Luca, com'era la serata? Me ne sono andato senza voce, a chi mi era giugantata alla grande. Va bene, ti piacciono le canzoni di Sassarese? Ah no, le conosco anche bene. Ah, cavolo. No, beh, c'è qualcuno che mi piace, però... ne canto qualcuna, dai. Però non tutte. E vabbè, tutte non è che le conosco, però quelle più famose, quando hanno fatto l'Argentiera... E io te ne dico una che tu non conosci, Lume Barone, la conosci? La conosci quella che è sentito la Lume Barone? Boh, non mi sento. Boh. No, mi sei spento l'apparecchio forse. Voleva anche la luce, perché tutto un tratto, la palla lo è preparato. Mia, Antonello li viaggio un preparone. Ehi, preparo in forno e sono in culo. Quella che dice Lume Barone è buono quando è buccio, in mezzo all'aggio e a rubri di simolo, quando a diaro comodo rimani la vada assai, la cosa non tocca la vai, sino da buon di vai, ai ai ai ai ai ai. Insomma già, queste canzoni sugli ortaggi, cosa ho compresa la melinzana, sempre lì vanno a parare, hai capito? Quando ti frigge la canna. Vabbè, ma Lume Barone è vecchia, ma di un meme, io me la ricordo quando ero ragazzino che la sentivo. Altri tempi. Comunque già, la modulazione come ti sembra? Sto utilizzando appena di eco fisso dell'apparato. E il KPO. È perfetta la modulazione, non disturba, e diciamo che c'è appena di eco, quindi non disturba. Io invece ti voglio fare ascoltare, aspetta però che prima mi organizzo. Effetto cattedrale, Marco. Sì, è leggero leggero. Io mi sto ghiacciando le gambe e i piedi qua, però devo fare qualcosa. Magari mi avvicino alla stufa, dai, perché ancora non ne ho acceso. Riprendi San Pei. Metti la stufa. Con questa meglio è a tutti. Scappa. Sì, meglio. San Pese è molto, molto basso di segnale ora, cosa hai combinato? Ma non rende, non rende. Ti sento io ma non ti sento altro nessuno. A me bene mi senti lì. Cambialo, cambialo che no, non va bene. Ok. Daniele! Ecchi lei! Adesso sei 9. Prima? Sì. E prima quant'ero? Prima eri... ti sentivo 5 quando hai attaccato il tuo apparecchio. Strano ma vero. Daniele. Non prendi più questa da 50 watt minimo. Qua sono con 40 watt. Ma c'è ragione grande, no? E canto nei denti chi tu, la metà. Ma che cosa deve essere 600? Ma sei a buco niente. Ma c'ha l'antenna uguale alla mia. E tu che antenna sei usata? Io c'ho la mantova adesso. Ah, la mantova c'hai. Io c'ho quella 3 radiale. E tu quale c'hai adesso? La cosa? La energy. Qui un po' quella, però è Sirio. Perché l'altro modello, ma quello è quella l'energia, adesso mi ricordo come si chiama. GPE Sirio. Quella va butta, quella va bene. Che cazzo che poi il vento gli ha fatto la festa? Vuol dire che non era legata bene. Chiara, chiara. Ma sei rimasto. Anto me, riprendi. Sono qui. Wow, stai ancora facendo storie? Detto, stavo volando le cose. Aspetta, vuole Simone un attimo. La manto, ma ecco, la manto quando me l'hai buscata. Curatelo, qua in zona. Me l'hai trovata, che non ce ne troviamo più. qua in zona l'ho presa a pochi, pochi chilometri d'acqua là, l'ho recuperata. La 1 è Eia. La migliore. C'è quella di Giuseppe Tornado che sta ridendo, non la sta usando nessuno, se per piazza della Traga Bizzuglia. Te l'ho detto, ne la voglio parare io. E chi già? Quella di Giuseppe Tornado, ha cambiato casa e ha lasciato la manta, va nuovo, va nuovo, va nuovo, ora la piazza c'è la poca. Cazzo via, poi ho pensato lasciarla. È un peccato sì, ma se lui non ci vuole più andare, bisogna vedere se gli dà il permesso a toglierlo. Io te l'ho detto, se vuoi ne accapo io, ne accapo io, cioè, ma quella me la conservo, o me la piatto o me la conservo, la mando per 5. E se mi rendi la piazza, che non te la conservi a fare? Ti conservi l'altra casomai, la manto va, è superiore. Ma non ti credi assai, no? No, ma infatti come segnale no, magari, ma come robusta la antenna, sto dicendo. Già cambia, già che ricezione. Ma il segnale fuori meno, guarda da quella, qualcosina in più, ma la ricezione già. Ma si nota la differenza. C'hanno quei limiti di guadagno, non lo so qui. Perché ho avuto anche quella di Sant'Unio, niente da dire, anzi va più che bene come antenna, perché quando sono venuto qua usavo quella, e ascoltavo a tutti, però quando ho messo questa anche la ricezione è migliorata, adesso sento il 90% di tutti voi, di solito li ascolto bene. Ciao, vabbè. Sì, magari i libri di guadagno sono magari superiori. Avanti, Luca. Sono saldatore in mano che su una di quelle radio che ho provato poc'anzi ogni tanto si spegneva da sola e quindi c'avevo un problema sul cavetto d'alimentazione e adesso lo sto aggiuntando. Ah, ho capito. Vabbè, adesso te le sfrutti tutte, già ne è buca, va. Se avevo avuto la manta a 5 l'avrei piazzata subito. Ma è più pesante, Artù. È più pesante come antenna, è un bel bisatto, io temevo. Quando ce l'avevo io temevo, perché se li ingaggi chissà te la metti da non vedere. Ma chi? Li zira che sai fare, ma? Sì, diciamo, io, ma... Però, sto dicendo, avevo sempre la paura che all'inizio salivo quasi ogni giorno. No, questa l'avvantaggio che ha che è leggera e va bene, va, cazzo, cioè, è una bestia, questa antichità ci vuole davvero. Non te la più economica, però io va bene lo stesso, dai. Lo so. Non costa quanto la, ma non costerà quanto la Superlem, però. A me con lo sconto la Superlem me la lasciata 185 con lo sconto. Costava di più. Te lo so. Però non me ne sono pentito, ero un po' tentennante a prenderlo, lo sai. E loro mi hanno detto, guarda che va un bel bene. Ho detto, vabbè, la provo. Guarda che tanta gente l'ha presa, mi ha detto. E si sono trovati bene. Un progetto vecchio, E va bene. Ne avevo una solo, mi ha detto, una ne avevo, gli era rimasta una sola. Sì, adesso sta portando quella là, quella tra i radiali, sta portando, quella come che ci abbiamo tutti, dai. E tu? Gli ho detto, portala perché quella è una bomba, gli ho detto, cioè, va bene, va. E poi il cavolo spinge anche forte, va bene, cioè se la metti in un palo alto, sono antenne 5 ottavi che vanno bene, non è che... Però sono più fine come antenne, mi hai capito? È la struttura un po', e poi i limiti di guadagno sono diversi. Se uno ne ha 7, l'altro ne ha 9, hai capito? Oh, 12 anni ce l'hanno, cosa Marco? Vuol dire che qualche cosa vale? Ragazzi, è preso io che vi saluto, dai. Cioè, fare la fatta. Ciao, ci sentiamo, dai, grazie per il questo. Dipende sempre dove, dipende sempre se il vento li tira, se c'è vento di mare che porta salsedine, è tutto che dipende da tutto. è lontano dal mare, capito? È in città. Io sono qua, anche qua pila di tutti di più. Ce l'ho già, quanto è già? 2 anni che ho piazzata. E ti devo dire che mi trovo bene. Aspetta. Eccezionali proprio. Ma guarda chi tocca. Adesso lo ripeto, Antone, ci sei? Sì, che ci sogno. Sono qua. E allora perché lo riprendi? Perché sono manico sessuale, hai capito? Ma stai usando le mani per altro. Che quella di Antonello è quella la mia? Sì, Antonella, sì, sono precise. L'ho controllata per i stazionari, è mistica. Alla grande, proprio, no? Niente da dire. La mia poca è, cosa fa? Da ore 1 sale alle 5 di poco, poi scende di nuovo a ore 1, però... di palo, capito? C'è un palo ruginoso, quindi a volte tocca e non tocca, evidentemente. Adesso farà meglio del tempo che finisce tutta quest'acqua, salgo sopra molli bulloncini, lasciando in terra e controllo a vedere cosa diavolo c'è. Pulisco il pezzo di sopra, lo verniccio, a meno che non mi cambia il palo, adesso, però con questi venti che stanno arrivando forti mi copierete e mi palo dell'acqua. Palo l'acqua, ci lascio. Ti passo la carta abrasiva, ripasso e poi lo riverniccio con l'alluminio. Tanto già conduce l'alluminio. Capo, già me ne accorgo che sventole già venne tra la capiciuria, anche la mia, ma sono troppo contento qua, no? Se andava via chi Sanringo era una giunta, era. Non andava, sì, andava, ma non così bene, che c'era un'altra cosa, Sanringo ci viene tutta leva. Via, una giunta, era. Sanringo è allucinante, come la piazza durava una settimana, massimo un mese, poi quelle specie di involucro che c'è nero, che sembra fatto di spugna, si allarga e se ne scende e va in corto. Non c'è niente da fare, bisogna fare una specie di foro, metterci una vite in modo che rimanga fermo, non si muova, il discorso è quello. Allora puoi anche usarla tranquillamente la Ringo. Anzi, più che con la specie di affare in alluminio che ce l'ha voluta la bobina fatta in rame, che è molto meglio. Di quelle che si usano come tubi d'acqua, quelle in rame, o più fini se ci sono. Fatta la stessa cosa, pestata dove fatto il foro e rimane in bijou come antenna, conduce molto di più di quella specie di bobina in alluminio. Per carità, quella che trovo io andava benino, andava, però le altre, quelle che avevo comprato erano una giunta, non servivano a niente, non andavano bene. E infatti no, non mi piace più di questa roba. Tu magari più là se c'è qualche soldo in più, ma me ne tengo una di scorta. Me ne compro una di scorta e me la tengo, non si sa mai. Che in questa qua mi dia qualche problema, mi piace subito l'altra. Sì, ce ne tengo una leggera, mi inutile andare a stare a comprare antenne da 3 kg, grosse, eccetera, eccetera, lunghe 7 metri di stilo. Tu devi stare spaventato quando fa vento, no? Non so che ti trovi il palo in terra, capito? È un casino. Io l'ho avuto a 20 anni, finché è durata. E poi già ci ha pensato il fulmine a criballa. No, metto queste che vanno bene e via. C'è una bomba e non danno problemi. Non danno problemi, no, perché puoi salire tranquillamente col palo telescopico. che fai altro, cosa vuoi fare? Pesa mezzo chilo, pesa. La sollevi con la mano sola, la sollevi. E sei tranquillo. E tu stai a avere pensamenti, sei padre, si spacca e ne prendi un'altra, tanto per quello che cosa, no? 60 euro in bar. Ma basta pigliare un'altra biscotta e ce l'hai. Di certo lo vado a spendere 150 euro o 200 euro per le antenne grosse che resistono un kilowatt e cose del genere, e chi ne usa più un kilowatt qua? Una volta usavo 7 lire da 600 e poi già mi arrivava la bolletta a casa. No, ma diceva di tanto, la bolletta così alta, ma dicevo, tu c'hai il frigorifero, la lavatrice, gli ho detto, dipende da quello, invece ero io. Ma ti resta le notte con gli attaccati. No, ma non mi conviene più pure niente né pesante. Quella della Midland costa un po' di più, costa. Quella della Midland, ma siamo lì, dai. La materia 60enne è uguale, è precisa. No, se devo tenere, tengo questa e basta. Cioè, se ne devo, quando ho qualche soldo in più, me ne prendo una di scorta, me ne prendo però sempre di quelle lì. Perché non ne voglio, cioè chi c'ha gabbicciuglia, vabbè, è un casino, non ne voglio buoni. Troppo pericoloso. Aspetta che è stato uno che ha detto cocco, ma è avanti. Tu non sarai tu, io sono Claudio Sparviero, cocco, ma è. Ti ho sentito in mezzo a lui, ti ho sentito, la verità, ti ho capito bene addirittura, sono l'altro. Cocco, ma è che. Ma dai, che ti devo lasciare, devo preparare a mangiare, ciao. Cos'hai detto tu? Che devo preparare a mangiare. Ti dico, ma è un casino. Cacciamattelo, io sono andato a portare giù il cane. Cos'hai detto già, il cane? Sì, sono andato a portare il cane giù. Ah, chiamare a chi? A Luca che è con X. Ah, Luca, Nuppi, Luca, avanti. Vi ascolto che vi sto dilettando a far funzionare delle cosette. Perché mi si spegneva l'apparato, uno di quei due che ho provato poco fa. Muovendo il cavo di alimentazione, ogni tanto staccava e si riattaccava. E c'era un falso contatto e adesso pare che sia risolto. Il cavo di alimentazione va attaccato bene, se no è un casino. Ascolta, Luca. Tu che hai sentito l'altra radio ieri, questa è la più grande, insomma, è 4.40, la modulazione è diversa, è più amplificata. Ieri era più prepotente come amplificata, come radio, era più presente, ma impercettibilmente anche adesso stai arrivando a palla, però ieri era più di presenza. Vabbè, ma questa ce l'ho uno, amici miei, quello là è a manetta. Quindi sono due radio completamente diverse, qua posso sollevare ancora, però non lo so se poi va. Vedi che va a fischiare. Vedi? Non posso sollevare di più. Io per sollevare mi devo mettere in piedi, però mi sa che esco uguale. No, questa la lasciamo così, solleviamo un po' i fatti però. Ho messo a 40 watt. Come me, uguale, però manca lo zero. Io sto con i miei 4. E a questa arriva sia a 100, questa c'è a 100 watt. Pieni, anche con un picco di modulazione, non so. Un po' tirata questa 4.40, l'avevo fatta io anni fa. Va bene, poi mi è stata restituita finalmente, sta funzionando, che è una meraviglia, va bene così, però devo usarla, perché se non la uso è un casino. Va bene, comunque la modulazione, questa mi sembra più prepotente dell'altra, ma non so come ricevete voi, ma io in cuffia mi sento molto più alto di preamplificazione rispetto all'altra. Beh, noi due siamo relativamente vicini, nel senso che siamo aperti, e per cui a me entri a manetta. Bisognerebbe chiedere magari a Daniele, a Itri, come arrivi. Sì, Daniele mi ha già dato il controllo, ce l'abbiamo uguale alla radio, quindi non è che ci siano molti discorsi da fare, ma va bene. Ok, dai, allora Antonio è andato a papà, ha detto c'è qua lì, ci vai Antonio. Io già sono qua. Già pompa quella parecchia voglia. Se vuoi qua su stavi bene, cara. Però devi controllare fino a fine, cara. Sentivi tutti. Purtroppo quando si cambia zona, anche io, quando mi arrizzendo era tutta un'altra cosa, era. Mazzavo, era molto più forte, la verità. Parlavo con mezza Sardegna, a parte gli spagnoli tutti i giorni, cazzo. Quindi se più che russi non sento, cazzo. Il problema è che avevo l'abbonamento con l'esco, posso gnare. E poi te ne sei andato nei quarti rialti. Cioè me ne sono andato lì perché babbo si era rotto i coglioni, più che altro. Di avere quello che metto in male nelle. Hai capito? Di quelli che abitavano di fronte a casa si lamentavano. C'era un finanziere proprio all'ultimo piano di fronte a me. Si era fatto l'appartamento abusivo nel terrazzo. E soltanto mi chiamava. Allì, cosa c'è a me? Mi sta disturbando la televisione, e te a me cosa me ne frega, gli ho detto, mi scusi. Lei si sistemi bene il tuo impianto e poi faccia quello che deve fare, gli ho detto, tanto c'ho tutti i giorni qua le poste, basta che parli con loro, gli ho detto, lei finanziere, quindi. Allora si incazzava e mi mandava a far culo. Ma gira ancora quel furgone bianco con le antenne? O esiste ancora come girava prima o non c'è più nessuno? No, è fermo quando sono io giù a Coso, vicino a Malcedo è fermo, dove c'è la sede dei pompieri lì a Pedranieta, dove sono le macchine dei pompieri, c'è la sede delle poste e c'è la macchina parcheggiata sempre lì. Io non ho più vista in giro, a meno che non escano per fare misurazioni per le radio locali, niente di strano. Ormai i radio locali qui con un kilowatt e mezzo non esistono più in città, sono tutte fuori, c'hanno i ripetitori, quindi da qua escono con 30, 40 watt, forse 50, da là invece escono con un kilowatt e mezzo. Chiamate a me, se chiami già vengono, però paghi, capito? Non è più come prima, non stavano in giro a consumare gasolio. Adesso se li vuoi li chiami e paghi, barotto. Quello già lo sapevo anch'io che si deve pagare. Se li chiami meno di 500 euro, penso che non costa una cosa del genere. 600 euro a chiamata, 600 euro. E ora di grazie. Se l'avrebbero fatto un'università privata sarebbero stati sempre in giro a mazzare, cazzo. Avrebbero fatto come quelli di che ha assunto Trump, cazzo. Stranieri, o li ammazzano, oppure ce li mettono in macchina e li spediscono per via aerea. Ce ne abbiamo passato, già ti ricordi, ce ne abbiamo passato, lascia perdere, non è buccia d'arancio, vabbè signori, dai, io sono andato a salutarvi, adesso passo il correttivo definitivo che porta la cena, ciao Antonello, ciao Luca, chiunque fosse l'ascolto, bye bye, a domani signori. Ciao cara, ci sentiamo, stai bene, buon correttivo, tutto, buona cena, eccetera, eccetera, avanti Luca. Ciao Claudio, buona cena e buon inizio settimana da domani. Antonello, ma quel microfono la Fayette poi l'avevi visto? Domani dopo ho sceso un attimo dall'apparecchio, quello che mi ha detto tu modificato, l'ho sceso un attimo giù da Giovanna. Domani lo stago su, comincio quello di Antonio da sistemare, sono uguali. Uno è 68, quello che mi ha detto tu è 48. Devo staccare i fili, ho parlato con Stefano, mi ha telefonato e ho parlato con lui gli ho detto che lo volevo modificare, devo cambiare tutti i cavetti, perché gli ho detto se no è un casino farlo funzionare. Eravamo al telefono poco fa che mi stava dando qualche dritta, stavamo ci abbiamo fatto una mezz'ora di chiacchierata. E me mi ha chiamato 2 giorni fa, era con Giovanni, ma figurati. Mi ha chiamato, stava la loro rispino e abbiamo parlato quasi un 3/4 d'ora, cosa del genere. Sta uscendo mette sul microfono dove si era fatto, ho detto no, ancora, ho detto devo cambiare tutti i collegamenti che ci sono in quel mossetto che apri, cioè chiudi e apri, e quindi faccio prima collego il mossetto direttamente del normale, poi ti faccio l'altro, mi collego l'altro in parallelo, così almeno funzionano entrambi. Sono le 8 e mi sta venendo anche fame, lo sai. Allora, mi è andato, mi arriva un messaggio, no, che mi ha dato la carità, cazzo. Mi sei rimasto nella mia testa, cazzo, mi ha scritto. Cazzo, cagagata, cazzo, bisogna che la... cerco di eliminarla, cazzo. Mamma mia, cazzo. Quando ti chiedo l'amicizia, poi scopri, cazzo, che sono... ragazzi si mettono in posa, carità, cazzo. Tu c'è Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di te, Antonello, ciao. Cazzo, devo ascoltarmi la messa. Attendate, Giudice. Beh, io spengo tutto e vado a cucinarmi una cosa. Buon proseguo a chi rimane e ci sentiamo magari domani. Grazie a tutti della compagnia e passo in QRT. Ciao, ciao. E ciao, ci sentiamo domani. Stai bene, buon tutto.